Savonarola, il frate che sbruciacchiò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che andava per un'Italia dove le strade erano bianche, percorse da mezzi a trazione animale, tanto che molti si lamentavano della polvere e della puzza degli escrementi scaricati dalle bestie che, pur fastidiose, in fondo erano innocue, e lette oggi da me che vado per un'Italia dove le strade sono asfaltate, percorse da mezzi a trazione petrolchimica, ma pochi si lamentano delle polveri sottili e dei metalli pesanti scaricati dalle auto, che invece sono tossici e spesso letali. D'altra parte, per un chiodo si perde un ferro e per un ferro un cavallo. Serio, capitolo 33, la bruciazione delle vanità. Nel gennaio e febbraio 97, avendo gli avvenimenti dell'anno passato rimesso in favore il Partito Popolare, veniva eletto gonfaloniere di giustizia Francesco Valori, con una signoria tutta a lui devotissima. Se egli fosse stato d'animo più temperato e di passioni meno ardenti, era forse venuto il momento di mettere un freno agli arrabbiati e ai bigi, ma il Valori, che si lasciò sempre trascinare dal suo impeto, non volle questa volta prestare alcun ascolto alle parole del Savonarola, che suggeriva di restringere un poco il Consiglio Maggiore per escluderne quelli che aspiravano contro alla Repubblica, e volle invece allargarlo. Fece quindi vincere una nuova legge, la quale decretava che per entrare nel Consiglio Maggiore in luogo di 30 anni bastasse averne 24. Il suo fine era di assicurare la Repubblica con renderne il popolo sempre più largamente e assolutamente signore, ma l'effetto seguiva assai contrario ai suoi desideri, giacché questa legge apriva il Consiglio alla gioventù scorretta e tumultuosa degli arrabbiati, la quale era quella che più di tutti odiava il Savonarola, il nuovo governo e il nuovo vivere da lui introdotto. Proibiti i balli e le feste, distrutto il carnevale, la vita aveva per essi perduto ogni scopo, onde s'erano fatti autori principali di tutte le insidie dirette contro al frate, e per meglio operare di concerto s'erano uniti in una compagnia sotto il comando di Messer Dolfo Spini. Andavano armati, attaccavano brighe, commettevano atti violenti, onde il popolo li chiamava i compagnacci. La nuova legge, aprendo ad essi il consiglio, poneva nelle loro mani un'arma potentissima, di cui seppero subito profittare con grave danno della Repubblica. In questo mezzo il Savonarola s'era ritirato nel silenzio della sua cella, ove attendeva a correggere il trionfo della croce e a scrivere un gran numero di minori operette che voleva ben presto dare alla luce, onde diffondere più largamente la sua dottrina e trovare dei fautori in quella nuova lotta contro Roma che pareva oggimai inevitabile. Per queste cagioni la direzione delle cose spirituali era venuta nelle mani di frate Domenico da Pescia, fervido e bollente nelle cose religiose quanto il Valori nelle politiche. Egli era così cieco, ammiratore del suo maestro, che non solo prestava una fede pienissima a tutte le sue profezie, ma lo teneva ancora capace di operare ogni più grande miracolo, e con infinita gioia avrebbe speso la vita per sostenere una qualunque delle parole di lui, se non che, tradito assai spesso da uno zelo eccessivo e da una soverchia credulità, era sfortunatamente troppo facile a trascorrere in pericolosi eccessi. In tale disposizione d'animi e di cose si avvicinava il carnevale, e gli arrabbiati si erano apparecchiati a promuovere il ritorno delle antiche orge, delle scandalose feste medice e soprattutto del gioco dei sassi, a cui sapevano il minuto popolo essere più d'ogni altra cosa inclinato. Onde fra Domenico, assai indignato di ciò, si decise a combatterli con tutto il suo ardore. Ogni giorno faceva sermoni, indirizzava epistole ai fanciulli e con nuove leggi della signoria fece rafforzare quella loro riforma che il Savonarola aveva incominciata nel passato anno. Già essi, uniti sotto la direzione dei loro capi, percorrevano la città e, picchiando alle case dei ricchi e dei poveri, chiedevano ciò che chiamavano le vanità o l'anatema. Erano disegni e libri osceni, abiti e maschere carnovalesche, le quali cose, non appena ottenute, ripetevano una certa orazione composta dal Savonarola e andavano oltre. Fu in questo modo raccolta una grande quantità di oggetti che dovevano servire per una festa immaginata da Fra Domenico e dal Savonarola. Infatti, l'ultimo giorno di carnevale, 7 febbraio, niuno pensava più alle solite orge pagane, ma tutti si erano apparecchiati a una solennità religiosa. Nella mattina uomini, donne e bambini assistevano a una solenne messa del Savonarola e si comunicavano per le sue mani. Tornati alle loro case e fatto un desinare assai frugale, andavano il giorno tutti uniti in una grande processione per la città. Portavano innanzi a loro un Gesù bambino, il quale, opera bellissima del Donatello, era sostenuto sopra 4 angeli e con la sinistra accennava una corona di spine, mentre con la destra era in atto di benedire il popolo. Seguiva dietro dietro la gran moltitudine. Alcuni erano vestiti di bianco, la più parte avevano in mano croci rosse e rami d'ulivo, cantavano inni religiosi e laudi spirituali. I limosinieri giravano intorno con vassoi d'argento, accattando per i buoni uomini di San Martino, che ricevettero in quel giorno maggiore limosina che non avevano fatto in tutto l'anno. Arrivata finalmente la processione nella piazza, vi trovarono una gran piramide ottangolare che sorgeva all'altezza di 30 braccia e girava nella base braccia 120. Era spartita in 15 scalini, sopra i quali erano depositate tutte le vanità raccolte nel carnovale, la cui mostruosa immagine fu posta sulla cima della piramide. L'interno di essa era tutto pieno di materie infiammabili. La folla riempì subito la piazza e i fanciulli furono disposti parte sulla ringhiera, parte sotto alla loggia dei Lanzi, continuando sempre a cantare canzoni religiose e invettive contro al carnovale. Dato un segnale, i quattro custodi misero il fuoco ai quattro angoli della piramide. Il fumo e le fiamme si alzarono subito al cielo, le trombe della signoria suonarono le campane di palazzo e la moltitudine levò un tal grido di gioia che parve quasi fosse spento in quel giorno il nemico del genere umano. Così finiva la processione e il carnevale dell'anno 1497. Quelli che sparlavano d'ogni cosa diretta o consigliata dal Savonarola e dai frati di San Marco non potevano certo restarsi dallo sparlare contro la distruzione di quegli oggetti e dal dire che assai meglio si sarebbero venduti per darne il valore ai poveri. È singolare però che negli antichi storici si trovi appena qualche rara memoria di queste accuse e che nel numero quasi infinito di quegli scritti in difesa o in detrazione del Savonarola, nei quali si era preso ogni argomento per muovergli ingiurie, questo solo sembra essersi affatto tralasciato. Così non è avvenuto però presso i moderni. Quando incominciò a rinascere l'amore delle cose antiche, quando questo amore crebbe sino al fanatismo, in maniera da far credere che noi non fossimo destinati ad altro ufficio che a pubblicare antichi codici e restaurare antichi quadri o monumenti, allora il bruciamento delle vanità divenne un argomento retorico per chiunque discorreva di quei tempi. Il nome di superstizioso, di barbaro e distruttore delle nostre antiche grandezze venne profusamente dato al Savonarola. Un antico manoscritto era smarrito, si affermava subito bruciato dal Savonarola. Un'edizione del Boccaccio diveniva rarissima, ognuno assicurava che era stata dal frate distrutta. Fu perduta un'antica statua, niuno dubitò che i piagnoni l'avessero annichilata nel bruciamento delle vanità. Ma qual fuoco dovette essere quello che bruciava statue di marmo? Era egli credibile che i fanciulli potessero raccogliere un'intera edizione del Boccaccio? Il soggetto però si prestava così bene alla retorica, secondava così mirabilmente le passioni del pubblico, che pochi sapevano resistere alla tentazione di ergersi a difensori dell'antica grandezza dei nostri monumenti e di fare una lunga orazione sopra i funesti effetti del fanatismo. E bisogna notare che il primo innocente autore di questi eccessi fu il Burlamacchi medesimo, il quale, con una ingenuità sua propria, si fermò lungamente a raccontare e colorire e esagerare quel bruciamento come un'opera tutta religiosa, tutta cristiana. A lui non pareva mai di aver detto abbastanza quando si trattava di esaltare il santo zelo del suo eroe. Non di meno le sue parole non erano tali da dare appiglio all'eccesso cui arrivarono i moderni scrittori, giacché fra i molti oggetti di valore che menziona quel biografo non riuscì a determinarne alcuno di cui si dovesse veramente deplorare la perdita, se non che alla fine della sua narrazione il Burlamacchi, tutto esultante, conclude che, avendo un mercatante veneziano offerto per quegli oggetti la somma di 22.000 fiorini, il suo ritratto venne posto sulla cima della piramide accanto alla immagine del carnovale e fu con essa bruciato. Una somma così ingente e quasi favolosa dava libero gioco alla fantasia e permetteva facilmente di immaginare la perdita di ogni oggetto più prezioso. Avendo dunque amici o nemici del Savonarola per opposte ragioni, ugualmente esagerato in questa materia, divenne assai difficile determinare i giusti limiti del vero. Si doveva però considerare che, sebbene il Burlamacchi sia assai diligente nel raccontare i fatti che gli vide o sentì ripetere da testimoni oculari, è sempre inesatto ed esagerato in tutte le cifre che riporta. Quando egli ci parla della processione dei fanciulli, ne fa scendere il numero quasi a tutta la popolazione di Firenze. Quando ci parla di limosine raccolte, le cifre che menziona vanno sempre al di là del vero simile. Gli anni e le date sono poi sbagliate in maniera che da questo principalmente nacque quella tanta confusione nello scrivere la vita del Savonarola, di cui bisognò rifare tutta la cronologia sopra i documenti originali. Che peso adunque possano avere dei giudizi fondati sopra una cifra addotta da tale scrittore? Che logica è quella che vuole in questo caso credere alle cifre del Burlamacchi quando è stato forza di scredergli in tutti gli altri? Ed è poi credibile che il Savonarola avesse potuto bruciare delle statue o dei codici preziosi quando gli italiani facevano lunghi e pericolosi viaggi per ricercarli e spendevano la vita e la fortuna per averli. Egli credibile che nel secolo di Marsilio Ficino e D'Angelo Poliziano nessuna voce si levasse a condannarlo e che il Nardi, traduttore di Livio e così caldo ammiratore degli antichi, accennasse con tanta noncuranza a quei pochi che mormoravano. Ma nel respingere le strane esagerazioni, noi non vogliamo assolutamente negare l'esistenza di un fatto di cui cerchiamo piuttosto determinare il giusto valore. Quali fossero le vanità in quella occasione bruciate, noi non sappiamo. Ma certo, la più parte dovettero essere abiti, maschere ed altri oggetti carnovaleschi, giacché il bruciamento era stato immaginato solo per distruggere il gioco dei sassi e metter fine alle antiche feste del carnovale. Crediamo pure che a manifestare la sua disapprovazione contro il malcostume dei tempi avesse il Savonarola fatto bruciare qualche copia di quel Decamerone che era allora divenuto lettura favorita delle suore nei chiostri e di quei poeti più osceni che andavano per le mani dei fanciulli e delle donne e contro i quali egli aveva fulminato nelle sue prediche con parole assai energiche. Né di queste cose intendiamo scusarlo affatto, ma se il dotto può lamentare la perdita di qualche volume, se il filosofo deplora l'umana debolezza che spesso combatte gli errori con altri errori e da un fanatismo ne oppone un altro, la storia deve rammentare che tale fu sempre il carattere degli uomini animati da un forte, da un eccessivo zelo di religione. Che cosa infatti non distrussero gli iconoclasti in Oriente o i primitivi cristiani a Roma? Né si adduca contro al Savonarola la progredita civiltà dei tempi, giacché nel secolo di poi ni una chiesa e ni un quadro resisteva in Germania e in Olanda alla furia, ben altrimenti devastatrice, dei distruttori delle immagini. Non era forse contemporaneo di Leone X e Francesco I quel Giovanni Calvino, d'ingegno senza dubbio cultissimo e d'animo ferreo, il quale, fattosi anch'egli capo d'una repubblica, senza il merito d'averla fondata e chiamandosi banditore di libertà e di tolleranza, non solo puniva severamente i bestemmiatori e chi lavorava la domenica, ma anche imprigionava le donne per la poco modesta acconciatura dei loro capelli. Non era egli che nell'anno 1553 bruciava a Ginevra l'innocente e infelice Serveto? Ma perché andiamo noi risvegliando queste tristi memorie del passato che umiliano tutte ugualmente il cuore dell'uomo? Per difendere il Savonarola noi non abbiamo bisogno di ricorrere a questi esempi di fanatismo religioso, quando le ragioni da noi già addotte non bastassero a provar falsa l'accusa di barbaro distruttore, basterebbero allora i fatti, fra i quali uno che avvenne nel tempo medesimo di questi bruciamenti è tale che può mettere per sempre termine alla disputa. Noi abbiamo visto in che grandi strettezze si fosse trovata la Repubblica negli anni passati, per queste ragioni dovette decidersi a porre in vendita la Biblioteca dei Medici, la quale, dopo che essi furono cacciati, era stata insieme con i loro beni confiscata, ma le strettezze dei privati i cittadini, non essendo punto minori di quelle della Repubblica, nasceva il pericolo che quella stupenda collezione dovesse andare dispersa o forse anche cadere in mano straniera, già che molti erano i creditori dei Medici e fra gli altri v'era l'ambasciatore francese Messer Filippo di Comines che faceva adesso valere un suo credito di 1000 fiorini. Per buona fortuna potevano i frati di San Marco disporre di una forte somma di denaro, perché se si trovavano ora appunto in sul finire la vendita dei loro beni secondo i consigli di povertà dati dal Savonarola. Qual più bella occasione, pensò questi allora, per mettere a profitto ciò che se ne era riscosso. Comprando quella ricchissima collezione di codici, egli la salvava dalla dispersione e dal pericolo d'andare in mano straniera. L'avrebbe messa nella biblioteca del convento, la sola in Italia che stesse aperta al pubblico, e nel medesimo tempo veniva, coi danari cavati dalla vendita di tutti i beni, a aiutare la Repubblica nelle sue grandi strettezze. Qual uso più nobile e più santo dei loro averi potevano fare i frati di San Marco? Essi adunque comprarono quei libri per la somma di 3000 fiori, pagandone subito 2000 che già avevano, e per gli altri 1000 ne restarono debitori sino al gennaio 1498, quando, avuta in aiuto la firma di Bernardo Nasi, s'obbligarono di pagarli fra 18 mesi a Filippo di Comines, sperando che in un'opera di pubblica utilità sarebbero aiutati da tutti gli amici e parenti. E tutto ciò aveva luogo in quegli anni medesimi in cui veniva distrutto il carnovale mediceo, e quei contratti si facevano nel tempo medesimo in cui seguiva il tanto vituperato bruciamento delle vanità. Così il Savonarola impiegava il provento di tutti i beni del suo convento, gravandolo anche di un fortissimo debito, per salvare al mondo quella stupenda collezione laurenziana che oggi forma una delle più belle meraviglie di Firenze ed era allora la più compiuta e preziosa raccolta di autori greci e latini che si conoscesse in Europa. Tale fu colui che molti vorrebbero chiamare barbaro frate, bruciatore di codici antichi, distruttore di quadri e di statue.